Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Parliamo di un progetto stasera, di una sperimentazione che sta per partire e che coinvolge la città di Torino. Il progetto è un progetto europeo, si chiama OptiCities, è uno dei più rilevanti nel settore della mobilità sostenibile. Torino ha superato le selezioni per entrare a farne parte e presto potrà sperimentare, e di sicuro questo è il primo caso del genere in Italia, un sistema informativo integrato per ottimizzare la mobilità multimodale in tempo reale. Allora, proviamo subito a districare questa definizione così verbosa con l'aiuto della professoressa Cristina Pronello, docente del Politecnico di Torino, che saluto. Buonasera, Pronello. Buonasera. Dunque, lei conosce bene il progetto OptiCities per averci già lavorato in Francia e ora ne seguirà gli sviluppi per conto del Politecnico di Torino. Lei è una specie di responsabile scientifica, giusto, del progetto? Assolutamente sì. Perfetto. Ho sviluppato il progetto insieme a Grand Lyon per questo progetto europeo. Che è il progetto padre o madre, a seconda dei punti di vista. Nel progetto, diciamolo subito, ci sono altre realtà del settore informatico come CSI Piemonte e 5T, ma per farci capire concretamente quello di cui stiamo parlando, voi quello che farete sostanzialmente è mettere appunto un navigatore molto avanzato, tipo Google Maps per dare un'idea, ma con due caratteristiche fondamentali in più: sarà pienamente multimodale e in real time, in tempo reale. Facciamo subito un esempio. Io arrivo alla stazione di Torino e devo andare da qualche parte nella cintura o in periferia. Voglio andarci con i mezzi pubblici. Che cosa mi offre questo navigatore che oggi non c'è in giro? Beh, allora il navigatore, intanto devo avere uno smartphone e avrò la mia applicazione OptiCity scaricato e dico al navigatore: io sono qui alla stazione di Porta Susa di Torino, devo andare al punto B, immaginiamo a Collegno. Lui mi proporrà una serie di opzioni, mi dirà: guarda che dal punto A al punto B tu puoi andare a piedi fino alla stazione del tram, prendi il tram XX, dopodiché scendi alla stazione Y, prendi l'autobus ZZ, arrivi alla destinazione a una certa stazione, dopodiché farai ancora 5 minuti a piedi, e mi mostra tutti i percorsi con tutti i cambi, con esattamente gli orari reali, quindi real time, di quando io scendo e quando posso risalire a seconda dell'arrivo reale alla fermata del mezzo successivo. Per esempio, questo navigatore, se io gli faccio la stessa domanda, ad una certa ora mi dirà di prendere il bus, magari ad un'altra ora mi dirà invece di prendere la metropolitana e fare un altro giro, perché la posizione effettiva dei mezzi pubblici in quel momento lì è diversa. Assolutamente sì, okay. E mi dirà di più. E questa è la differenza fondamentale. Conviene prendere la bicicletta, il bike tow, quindi il bike sharing, esatto, fino a una certa fermata, perché in quel momento non mi conviene aspettare più a lungo un certo mezzo, mi conviene prendere la bicicletta e poi prendere magari la metropolitana. E se mi dice di prendere la bicicletta è perché sa che in quella piazzola la bicicletta c'è, è disponibile. Assolutamente, il vantaggio temporale è che tutte le volte io rischio di andare e non ci sono biciclette, oppure arrivo a destinazione e non riesco a posarla perché gli stalli sono pieni. Insomma, quindi lui mi dirà prima se c'è una bicicletta e se la posso lasciare dove voglio lasciarla. La fruibilità effettiva dei mezzi pubblici diventa enormemente maggiore, soprattutto poi se questa cosa viene associata a un sistema, diciamo, di bigliettazione integrato, ma questo è un capitolo che adesso non abbiamo il tempo di aprire. Invece è importante specificare che questa cosa non riguarda solo i mezzi pubblici. Assolutamente no, anche l'automobile. Io posso per esempio arrivare e mi propone di prendere per esempio l'auto nel parcheggio del car sharing, perché è lì vicino ed è comoda, c'è la macchina disponibile e mi dirà fin dove posso andare posandola in uno successivo parcheggio di car sharing. Oppure immaginiamo di essere un privato, alla sua macchina, e mi dice: guarda, questa mattina, visto che c'è congestione lì, c'è del traffico là, prendi la macchina, posala in quel parcheggio di interscambio, poi prendi la metro, poi prendi questo pullman e così via. E il tutto quindi sarà sempre totalmente ottimizzato. E tra l'altro abbiamo trascurato una cosa invece affascinantissima: non solo questo sistema ti racconto dello stato attuale del traffico, ma addirittura farà delle specie di previsioni del traffico, tipo le previsioni del tempo, per cui magari adesso troveresti la strada libera, ma quando arriverai lì tra un'ora sarà tutto occupato, quindi fai un'altra strada. Esattamente, la cosa molto interessante si basa su una serie storica continuamente aggiornata, quindi fa previsioni continue, secondo dopo secondo, a un'ora, alla prossima ora, e quindi io da casa posso già capire che fra un'ora, perché se il mio viaggio è un po' più lungo, non mi conviene prendere l'auto, e quindi cambio modo e decido che lui mi dà l'altra opzione, dicendomi costo, tempo ed emissioni di energia carbonica per ogni alternativa. Naturalmente una città, per poter mettere in piedi una roba di questo genere, quindi non si tratta solo di scrivere un software, voglio dire, bisogna avere già tutto un sistema di raccolta dati in real time, per esempio sul traffico e quant'altro. Assolutamente, altrimenti non sarebbe stato possibile. Torino, grazie ai 5T, ai GPS sui mezzi pubblici, alle spie e ai sensori installati sulla rete stradale, ha già una gestione avanzata e ha già dati in tempo reale sul traffico cittadino, sia pubblico che privato. Quindi partiamo da una base molto, molto avanzata che ci ha permesso di partecipare al progetto. Indubbiamente ci saranno molte altre cose da fare durante il progetto, per acquisire dati che già ci sono, ma scollegati, sulle biciclette, sul bike sharing, sul car sharing, più integrare i software di carpooling per permettere alla gente di fare condivisione dell'auto privata. Senta, chi saranno i fortunati che sperimenteranno per primi? Saranno 150 gli sperimentatori di questo navigatore avanzatissimo? Esattamente, saranno 150 persone selezionate secondo una griglia severissima di criteri che considererà il genere, uomini e donne, l'età, la professione, il luogo di residenza, il comportamento di mobilità, quindi da dove partono, a dove arrivano generalmente, per riuscire a coprire e testare tutta l'area metropolitana. Quindi abbiamo bisogno di persone che hanno maggiore o minore dimestichezza con... Eh sì, ce ne vorrebbero 2000, la verità è questa, per riuscire a beccare ogni singola categoria. Con la certificazione copriremo un po' tutte le tipologie, così permettendo di avere un feedback, una reazione dell'utente diversissima tra loro, dagli anziani ai giovani. A Lione l'abbiamo iniziato a fare e sta dando dei risultati estremamente. Ecco, infatti adesso noi ci dobbiamo fermare qui, ma domani continuiamo a parlare di questo progetto OptiCities, che appunto ha una dimensione europea che non abbiamo nemmeno accennato, ma che comprende 23 partner, tra cui industrie, centri di ricerca, 6 città, e continueremo a parlarne perché dai risultati che ci sono stati proprio dai progetti francesi stanno venendo fuori delle indicazioni molto interessanti di quelle che possono essere le opportunità, ma anche di quelle che sono le minacce che possono proprio minare alla base il successo di questo tipo di applicazioni. Dunque, professoressa Pronello, domani torniamo a parlare di questo. Con piacere. A domani.